L'appello, come detto, è partito da Leila Guven, cioè lo sciopero della fame, il 7 novembre, quindi ormai da molti mesi. A lei si sono unite nel tempo ben 7.000 persone, e la maggior parte delle quali si trovano nelle carceri turche, ma lo sciopero ha acquisito un carattere europeo, infatti ci sono attivisti, sciopero anche in Regno Unito, a Strasburgo, e anche in Italia dal giorno del Nevroz, dal 21 marzo, un compagno, Erol, è in sciopero della fame all'Ararat. Lo sciopero della fame è stato indetto a tempo indeterminato finché non sarà rotto l'isolamento nei confronti di Öcalan, ma è anche uno sciopero della fame che richiede un processo di rispetto di legalità nei confronti dei detenuti e delle detenute nelle carceri turche, per richiedere uno stato di democrazia che, come ben sappiamo, non viene rispettato nella Turchia di Erdogan. E quindi per tutte queste ragioni lo sciopero sta andando avanti anche dopo l'incontro che c'è stato il 2 maggio. Dopo 8 anni di isolamento, Öcalan è riuscito a incontrare alcuni dei suoi legali per un breve incontro, un incontro che però non è stato ritenuto sufficiente, cioè necessario sicuramente, ma non sufficiente per ritenere la rottura dell'isolamento valida. Per questo tutti gli attivisti e le attiviste hanno continuato, nonostante la richiesta di Öcalan di mettere fine a questo sciopero, in verità sta continuando. E la situazione è molto grave, molto drammatica, oltre 8 persone hanno già perso la vita in carcere e molte sono in condizioni di salute davvero grave. E per questo motivo dalla rete Zin è partito un appello nazionale per la richiesta di mobilitazione in Italia per l'11 e il 12 di maggio, al quale abbiamo aderito anche da Bologna. Esatto, infatti anche a Bologna ci sarà una mobilitazione, in particolare sarà il 12 con un presidio. Ti chiedo se puoi raccontarci un po' di più anche di questo. Sì, da Bologna abbiamo deciso di attivarci per domenica 12, ci siamo dati un appuntamento alle ore 17 in Piazza del Nettuno, insieme a diverse realtà politiche bolognesi, per cui è davvero un incontro, un presidio cittadino. Porteremo sicuramente solidarietà a queste 7.000 persone in sciopero della fame, ma sarà un presidio che ha un aspetto anche più ampio. Vogliamo ricordare sicuramente la memoria di Orso, combattente italiano che ha perso la vita combattendo l'ISIS in Rojava. Porteremo anche in piazza la causa delle 5 persone che in questo momento sono a Torino, che sono state in Rojava e hanno combattuto al fianco delle forze curde sempre contro l'ISIS e che in questo momento rischiano un processo davvero molto molto grave, per le quali è stata richiesta una sorveglianza speciale. Quindi un presidio che vuole dare piena solidarietà a quanto sta accadendo in Kurdistan e che vuole andare a sottolineare anche quanto in realtà siamo vicini a questa rivoluzione e in quanto anche l'Europa, come ben sappiamo, poi è ben collusa nei rapporti con la Turchia in termini economici, in termini politici, e quindi vogliamo sottolineare quanto sia importante scendere in piazza domenica e di quanto è una rivoluzione che tocca a tutte e tutti noi, pertanto fondamentale attivarci. Ecco, ti chiederei, visto che appunto l'appello è stato lanciato da Rete Gin, ma poi è stato raccolto da moltissime realtà, è andata così anche a Bologna, e quindi ti chiederei se avete già avuto un riscontro anche da altre realtà dell'attivismo bolognese. Sì, l'incontro è partito appunto da Rete Gin nazionale, sul locale hanno aderito davvero diverse sigle, tra cui ovviamente Rete Gin Bologna, ma anche la realtà di Non Una di Meno e diversi spazi sociali, CRESH, XM, VAG, Berneri, non so se ne ha saltato qualcuno, insomma tutti gli spazi sociali politici di Bologna scendono in piazza, pertanto speriamo che sarà davvero un bel presidio. L'appuntamento, ricordo, alle 17 in Piazza del Nettuno, capiremo anche se muoverci in corteo quel giorno.